Oddio, no! Cosa? Si mise la mano sulla bocca. Oddio, no, cosa? C'è un morto. Scorse freneticamente il dito sul display alla ricerca di ulteriori notizie. Ma si sa chi è? No, dice solo un uomo sulla quarantina. Lui scosse la testa. L'avevo detto che andava a finir male. E adesso vedrai. Il peggio deve ancora venire. La riunione era iniziata puntuale come sempre. E tanto per cambiare, si stava di nuovo discutendo dei preparativi per il convegno. Minardi aveva preso la parola quasi subito e dopo 10 minuti stava ancora stilando l'elenco di tutte le cose fatte dopo la riunione precedente, fatte in larga parte dai suoi collaboratori, ma questo non lo disse. Ad un certo punto perfino Carla, che sapeva mascherare bene i suoi stati d'animo, si lasciò scappare un sospiro. Anche a lei Minardi non piaceva per niente, ma non lo avrebbe mai ammesso apertamente, tantomeno di fronte a Luigi. Avere rapporti cordiali o perlomeno civili con i colleghi di lavoro era per lei una questione di professionalità e su questo non transigeva con nessuno. Luigi aveva lo sguardo fisso sul tavolo, respirava appena. Infine, per quanto riguarda la scaletta degli interventi, ho assegnato la relazione di apertura al professor De Lucia. Credo che nessuno avrà alcunché da eccepire. Naturalmente farò in modo che a tutti gli altri relatori venga inviato il programma completo per tempo, in modo tale da evitare qualunque polemica al riguardo. Sappiamo tutti com'è andata 2 anni fa, ma purtroppo non sempre posso fare tutto io. Purtroppo, 2 anni fa, doveva dare visibilità al suo amico Tineke e se non fosse stato per lei, sarebbe filato tutto liscio. Luigi pronunciò quelle parole molto lentamente, scandendole una per una. Carla sgranò gli occhi come avesse udito un'esplosione. Stefania, pallidissima, gli lanciò uno sguardo disperato come per dire: ti prego, non farlo. Ma ormai Luigi era partito. Il problema di 2 anni fa è stato causato esclusivamente dalla sua manifesta incapacità. E se non fosse stato per la dottoressa Drioli, sarebbe andata ancora peggio. Minardi sembrava non credere alle proprie orecchie. Ma lei come si permette di... Io mi permetto questo e molto altro. Del resto prima o poi qualcuno glielo doveva pur dire. Scaricare i propri errori, o meglio la propria abissale incompetenza, sui propri collaboratori è una dimostrazione di meschinità veramente insopportabile. Non che la cosa mi sorprenda da uno come lei. Bernini, che fino a quel momento aveva assistito alla scena con l'espressione incredula di chi ha appena visto un alieno, cercò di intervenire. Dottor Tomasoni, quello che lei dice è davvero inaudito. Io la diffido. Non si preoccupi, direttore, non ci metterò molto e comunque ho già messo in conto un provvedimento disciplinare. Per quanto riguarda le mie affermazioni in riferimento all'episodio appena citato, desidero precisare che non si tratta di una semplice critica all'operato del dottor Minardi. Io desidero esprimere tutto il mio sdegno, tutto il mio disgusto, tutto il mio disprezzo per una persona che tratta i suoi dipendenti come zerbini e che lecca il culo al suo superiore che ancora un po' gli si consuma la lingua. Lei è una persona disgustosa, signor Minardi. E visto che ci siamo, voglio che lei sappia che considero la sua visione del mondo come una scoria medievale, un putrido e maleodorante escremento della storia. Quelli come lei mi danno ribrezzo e se fosse per me... Suonò il telefono. Luigi fece un piccolo balzo sulla sedia. Guardò il monitor e vide che si era attivato il salvaschermo. L'ufficio era vuoto. Le mani gli tremavano. Sollevò la cornetta. Tomasoni? Ciao, sono Stefania. Prendiamo insieme? Sì, volentieri. 12:30. Ecco. Abbiamo voluto iniziare così, direttamente con una lettura di alcune parti scelte appunto da Gianluca del suo nuovo libro L'Inconfessabile. Maria Pia Zanetti, un'attrice che ci accompagna in alcune delle nostre presentazioni, le ha dato la giusta energia che esce dal racconto, dal romanzo di Gianluca, scritto e pubblicato recentemente. La biblioteca è contentissima di avere la possibilità di presentarlo qui al Centro Trevi. Come dicevo, l'energia si coglie subito, è un racconto molto particolare perché ha una trama quasi da giallo, no? C'è una suspense che accompagna tutto il racconto e un finale così inatteso, come è giusto che sia, perché bisogna sempre scoprirlo leggendolo di riga in riga, insomma, come si svilupperà una storia. E anche i personaggi che vengono descritti da Gianluca sono dei personaggi molto vivi, molto vivaci, riconoscibili non, diciamo, da un punto di vista della persona in sé, ma presentano delle caratteristiche molto realistiche che possiamo ritrovare anche nelle nostre dinamiche quotidiane. Però c'è sempre un aspetto nascosto, c'è sempre un qualcosa di particolare, inatteso anche in ognuno di loro, che non ti aspetti. E quindi diciamo che questo è anche una capacità che ha Gianluca, che dimostra nelle sue scritture, in questo romanzo in particolare, di riuscire a dare al personaggio una struttura e al racconto stesso inattesa. Ecco, questa è una cosa che ci piace molto. Gianluca, vuoi dirci come è nata l'idea di scrivere L'Inconfessabile, che già dal titolo è molto intrigante, ecco come. Dunque, più o meno 6 anni fa avevo già pubblicato i racconti, ti ricordi che li avevamo presentati insieme, e anche dopo la pubblicazione avevo continuato a scrivere racconti, e anche se varie persone, amici di solito, mi cercavano di incoraggiarmi o di convincermi di provare a scrivere anche un romanzo, io per un periodo piuttosto lungo sono rimasto scettico, non ero convinto di esserne in grado. A dire il vero non avevo neanche un'idea che a mio avviso si potesse prestare a un tentativo del genere. E è successo poi, banalmente, una sera chiacchierando con un'amica, che stavo semplicemente raccontando una cosa che mi era una situazione che si era creata durante uno dei miei corsi di lingua all'estero, e questa amica mi ha ascoltato e alla fine del mio racconto mi ha detto: ma secondo me questa cosa qua che mi hai appena raccontato, spiegato, ci potresti tranquillamente scrivere sopra qualcosa, e qualcosa che forse potrebbe anche andare al di là del semplice racconto, anche perché i miei racconti poi di solito sono sempre stati piuttosto brevi. E quello è stato il primo momento in cui ho cominciato a prendere seriamente in considerazione la possibilità, l'idea di poterci se non altro provare. E quell'idea di partenza in realtà poi è diventato soltanto il primo capitolo. Ero partito pensando di poterci fare una cosa molto più ampia, e in realtà è il primo capitolo che si svolge a Gran Canaria, è probabilmente l'unico capitolo in cui parlo di fatti realmente accaduti in modo abbastanza fedele, insomma, con alcuni accorgimenti. E quello che è successo è che poi, scrivendo di getto, ed essendo arrivato al punto in cui poi il protagonista torna da Gran Canaria e torna in Italia, come dire, si dice che quelli che scrivono, che provano a scrivere, abbiano dei temi ricorrenti, evidentemente anch'io ho i miei, perché era già successo almeno in parte con i racconti. Fatto sta che ho finito per scrivere anche politica italiana, e insomma gli amici che mi conoscono meglio non saranno poi troppo sorpresi da questo. E nel romanzo, quindi nel capitolo successivi, c'è un personaggio politico che è assolutamente riconoscibilissimo, perché ci sono alcuni passaggi in cui insomma non c'è possibilità di fraintendimento sulla persona di cui sto parlando. Ho preso però la decisione di non pronunciarne mai il nome, il nome nel libro non c'è mai. E questa decisione in realtà ha due spiegazioni, due ragioni se vogliamo, e mi riesce più facile spiegare la prima, perché non volevo dare l'impressione che l'intenzione fosse quella di dare un contributo al dibattito su quello che è successo negli ultimi 20-22 anni, per il semplice motivo che sono convinto di non avere nulla di originale, di innovativo da dire a riguardo. È un personaggio su cui è stato detto assolutamente tutto, ripetutamente, fino alla nausea, e oltretutto da persone anche molto più autorevoli di me. Quindi quella intenzione nel libro non c'è, e ho pensato di poterlo segnalare anche meglio semplicemente non mettendoci il nome, nonostante, ripeto, si capisca benissimo di chi sto parlando. E c'è anche un'altra ragione per cui ho fatto questa scelta, e posso provare a spiegarla con un esempio. Mi è successo in tutto due volte di sviluppare una antipatia, ma che talmente pronunciata da sfociare quasi un po' nella repulsione, e non sto parlando di politica, parlo proprio di fatti privati, di vita privata. È successo due volte in tutto a quei livelli, quindi non spessissimo fortunatamente, e mi sono accorto che tutte le volte che per puro caso un discorso, una conversazione finiva per nominare, per toccare la persona in questione, di solito per iniziativa dell'interlocutore, io mi riferivo appunto a quella persona, quello lì, il responsabile di, il collega di, perché, non so, magari c'è anche un termine tecnico per definire questa cosa, io comunque non lo conosco, e posso solo descriverlo. Il pronunciare il nome di questa persona mi dava un senso di vicinanza che mi suscitava un senso di fastidio quasi fisico, e quindi mi sono accorto a posteriori, poi l'ho realizzato consapevolmente, facevo di tutto per evitare, quando il caso volesse che si parlasse di questa persona, facevo di tutto per evitare di pronunciarne il nome. E scrivendo il romanzo mi sono accorto che con questo personaggio pubblico mi è successa una cosa molto simile, per cui nei vari passaggi, ce ne sarebbero stati diversi in cui avrei tranquillissimamente potuto nominarlo esplicitamente, scriverlo mi dava una sensazione molto simile a quel fastidio che ho appena cercato di descrivere. Quindi anche per questa ragione ho evitato di nominarlo, insomma, indicarlo per nome. Hai elaborato le tue emozioni in qualche maniera. In qualche maniera. Però qualche d'altronde maniera. Per gli esseri umani, insomma, l'emozione è un collante ed è una motivazione molto forte, no? Noi ci relazioniamo e le persone alla fine ci trasmettono delle emozioni, che siano positive o negative. E le emozioni nel tuo libro ci sono, i tuoi personaggi, dicevo prima, sono realistici proprio perché queste emozioni le vivono, e tu sei stato in grado proprio di, così, di descriverle, di raccontarle, di così, renderle molto, molto bene, insomma, in una lettura, anche se lo stile, devo dire, è uno stile molto veloce, non è uno stile difficile come ci si potrebbe aspettare da un filosofo, ecco, perché vedevo prima il saggio di filosofia che ha scritto, insomma, ci sono, Gianluca si muove su terreni molto diversi fra di loro, perché dalla filosofia, dagli scritti appunto impegnati e scientifici, passa poi con una abilità incredibile alla poesia, che ha un altro linguaggio, un linguaggio metafisico e sicuramente ancora diverso rispetto a quello del racconto, dove le emozioni vengono dipinte e trasmesse in una maniera molto più complicata in certi momenti, in certe sfumature che non a tutti, ecco, passano, però quello che mi piaceva sottolineare è che Gianluca si muove veramente su tanti terreni, con tanti linguaggi, sperimenta sempre con successo delle tipologie di scrittura che non sono proprio sempre così comuni. Quello che è il tuo bagaglio culturale ritorna con una semplicità incredibile e anche con un appeal in questo romanzo che è L'Inconfessabile, dove anche la politica ci sta bene, cioè rende bene quella che è, che è l'energia di questo gruppo di giovani, di questi movimenti, di questi viaggi, adesso non voglio svelare troppo, ma che prepara una climax a quello che è il finale quasi da giallo che tu ci hai regalato con questo racconto. Ma l'hai vissuta poi direttamente anche queste esperienze, c'è sempre una parte autobiografica, cosa parte, dici? Parte, poi ci arrivo a questo, anche perché ci sono stati momenti in cui l'essermi identificato con quello che stavo scrivendo mi ha anche un po' preso la mano. E, torno un attimo al discorso precedente, a quelle che erano le mie intenzioni e quelle che non lo erano. E, posto quindi che non volevo in nessun modo entrare nel dibattito su quello che è successo dal 94 a oggi, quello che ho cercato di fare in realtà era un'operazione per certi versi piuttosto differente, molto più personale, per cui faccio una breve premessa. Io ho sempre pensato, per formazione, per convinzione personale, che la politica in realtà si debba intendere attraverso categorie razionali. L'ho sempre pensato, lo penso tuttora. E sono sempre stato abituato a concepire, a pensare la politica in termini di analisi delle forze in campo, in termini di analisi degli interessi contrapposti, in termini di analisi dei rapporti di forza, che per me è una delle questioni fondamentali, in termini di tattica, in termini di strategia, e con un simile approccio è abbastanza evidente che, per quanto mi riguarda, per me il risentimento non è una categoria della politica. E si dà il caso però che soprattutto dal 94 a oggi, per quanto mi riguarda, il risentimento è diventato e come risentimento politico. E questo ha evidentemente dato luogo a una contraddizione, un conflitto, un'incongruenza, possiamo chiamarla come volete, ed è una cosa che mi ha occupato, mi ha attraversato per tutti questi anni, poi a ondate, in base agli eventi, probabilmente anche in base alla mia predisposizione del momento. E però non è una cosa che mi ha sfiorato di striscio, è una cosa che ho sentito molto presente, e quindi nel momento in cui, appunto, ho scritto il primo capitolo, il protagonista torna a Bolzano, buonanotte, in Italia, e senza sapere bene esattamente quale direzione prendere, alla fine uno dei temi, forse il tema centrale che si è imposto, è stato questo. E quindi io ho fatto un'operazione, ovvero ho creato un contesto politico, ho descritto un evento che, per come io lo descrivo nel romanzo, in Italia non è accaduto. Le cose non sono andate così. Sono dell'avviso che ci fossimo abbastanza vicini 3 anni fa, però io parto da questo personaggio reale, concreto, che tutti riconoscerete molto facilmente, che invece di essere soltanto condannato in via definitiva, viene anche arrestato. E invece di tenere buoni e calmi i suoi, soprattutto su richiesta dei suoi avvocati a suo tempo, che ancora puntavano sul fatto che il capo dello Stato potesse concedere la grazia, chiama i suoi alla sollevazione. E quindi nel libro descrivo una manifestazione che ha luogo a Roma, fortemente ostile verso il capo dello Stato, che si rifiuta anche nel libro di concedere la grazia, e naturalmente c'è anche una manifestazione di segno opposto, lo stesso giorno e nella stessa città. Quindi io ho creato un contesto estremamente conflittuale, molto più conflittuale di quello che noi abbiamo effettivamente vissuto in Italia, anche 3 anni fa, e questo mi ha permesso di portare quella che ho prima definito come contraddizione, come incongruenza, come conflitto interiore, alle estreme conseguenze. E uno dei risultati è stato che alla fine mi sono identificato tantissimo con quello che ho scritto, con il protagonista, non solo con il protagonista, ci sono altri personaggi che in maniera differente poi vengono coinvolti in quello che accade a Roma, e devo ammettere che questa cosa, soprattutto nella prima stesura, nella prima gettata, mi ha preso la mano, nel senso che c'è una prima versione che alcuni hanno anche letto, in cui riferimenti poi a fatti reali della mia vita erano evidentemente troppo riconoscibili. Mi ricordo, io ho fatto leggere quella versione precedente a pochissime persone, anche perché ero in cerca di riscontri, non avevo mai scritto un romanzo, e in genere per carattere, finché non vedo, non ho la conferma reale, concreta, che sono in grado di fare una cosa, sono sempre molto titubante, molto dubbioso, e quindi anche con questa intenzione avevo fatto leggere questa prima versione, che poi ho chiaramente modificato, da alcune persone, e mi ricordo che due di queste persone sono anche due persone molto diverse tra loro, entrambe hanno commentato dicendomi una cosa del tipo: ma caro Gianluca, sei proprio convinto, sicuro di voler pubblicare questa cosa? Perché effettivamente alcuni riferimenti erano esageratamente riconoscibili. Per cui poi ho ripreso in mano tutto quanto, ho modificato vari passaggi, ho camuffato personaggi, ho introdotto descrizioni fisiche fuorvianti, insomma ho fatto in modo che questo aspetto fosse un po' attenuato, però confermo che è stata un'esperienza molto intensa quella della scrittura, è stata un'esperienza molto forte, e quindi ovviamente non posso dire niente della qualità, ci mancherebbe altro, però mi sento di dire qualcosa sull'autenticità, perché è sicuramente un pezzo di me in cui mi riconosco, e in cui le persone che mi conoscono meglio riconosceranno parecchie cose. Se siete d'accordo, passeremo al secondo blocco, poi aggiungo ancora qualcosa io, magari poi ne parliamo insieme. Francesca entrò in casa poco prima delle 7, quando fuori era già buio da un pezzo. Aveva passato l'intero pomeriggio nella biblioteca delle Oblate a lavorare sulla sua tesi di laurea in storia contemporanea. Aveva deciso di scriverla sulla crisi di Cipro e la caduta dei colonnelli in Grecia, pentendosene amaramente. Beh, non tanto per l'argomento, quanto per il professore, che la costringeva a scrivere e riscrivere gli stessi paragrafi fino allo sfinimento. Per puro sadismo, ne era sicura. Ci stava lavorando da più di 2 anni ed era ancora ferma al terzo capitolo. Beh, naturalmente avrebbe potuto cambiare il relatore, ma era troppo orgogliosa per arrendersi. E poi avrebbe dovuto quasi sicuramente cambiare anche argomento, il che voleva dire buttare 2 anni di lavoro. Impensabile. La tesi l'avrebbe finita, lo aveva giurato a se stessa, alla faccia dello stronzo professore e degli stronzissimi colonnelli. Francesca aveva due borse della spesa in mano e la sua 24 ore infilata sotto il braccio. Quando vide Fabio sdraiato sul divano che leggeva il giornale, lasciò cadere di proposito la porta documenti. «Oh, scusa, amore, non volevo disturbarti. Mi spiace da morire interrompere la tua lettura, ma lo apprezzerei davvero molto se mi prendessi una borsa e la portassi in cucina. Solo una, per carità». Fabio, un omone robusto sulla trentina, con una folta barba scura e due occhi azzurrissimi che trasmettevano gentilezza, appoggiò il giornale sul torace e voltò la testa verso di lei, raggiante. «Se vieni qui e mi dai un bacio, te le prendo tutte e due, che ne dici?» «Ah, pure il bacio!» Francesca posò le due borse delicatamente, si tolse il cappotto, lo appoggiò sulla poltrona e andò verso di lui. «Dai, fammi posto!» Fabio si strinse verso lo schienale. Lei prese il giornale e lo gettò sul pavimento. Si sdraiò accanto a lui. Si baciarono. «Allora, gioca Matri o Gomez?» Lui le diede un leggero pizzicotto sul fianco. «Non stavo leggendo lo sport. E comunque Gomez è infortunato». «Ah sì? E l'oroscopo? Con Giove in Sagittario come butta? Ma la finisci?» La strinse a sé con forza. Si baciarono di nuovo. «Stavo leggendo l'articolo sulla Siria, dopo te lo do». «No, no, meglio di no, che mi va di la cena di traverso. A proposito, tu non è che per caso hai tirato fuori dal freezer la carne e le melanzane come ti avevo detto io, vero?» Lui serrò gli occhi inclinando la testa all'indietro. «Ecco, figurati, lo sapevo. Con Giove in Sagittario il culo resta sul divano». Fabio rise. «E c'è pure Urano in Capricorno, sai? E lo dicevano anche i persiani che con Urano in Capricorno le melanzane non vanno bene. Molto meglio la pizza a domicilio». Francesca gli infilò una mano sotto il maglione. «Ma che uomo spiritoso che ho! Sono proprio fortunata!» Si baciarono di nuovo. Lui cercò di toglierle la felpa, ma lei lo fermò. «No, dai, che poi ceniamo alle 11, sussurrò. «Oh, se non a mezzanotte! C'è Plutone nel Toro che mi fa tutta una roba qui sotto!» «Dai, piantala!» disse lei ridendo. Si alzò dal divano e si riaggiustò la felpa. Poi si chinò e raccolse il giornale. Diede una rapida occhiata alla prima pagina. «Ma tu guarda questi strozzi, roba da non credere!» Fabio sbuffò. Già sapeva cosa stava per arrivare. «No, è inutile che sbuffi, tanto sabato ci andiamo». «Ma lo hai letto cosa dicono?» «Sì, Franci, sì, l'ho letto». «Ecco, appunto. Sabato c'è il Frecciarossa, aspetta che parte, aspetta». Prese il cappotto dalla poltrona ed estrasse il cellulare. «Santa Maria Novella 10:38, Roma Termini 12:10. Guarda, puoi pure dormire fino alle 9. Fabio non rispose. La guardò con un'espressione perplessa e rassegnata che lei conosceva bene e che nei giorni precedenti aveva visto tante volte. Tutte le volte che avevano discusso dell'argomento. Francesca infilò il cellulare nella tasca dei jeans. «Sarebbe meglio prenotare i posti», aggiunse. «Ci sarà un sacco di gente che va a Roma». Fabio si mise seduto e prese in mano il giornale. Lo sfogliò. Si fermò a pagina 6, politica interna, lesse i titoli pieni di virgolettati, lo richiuse e lo appoggiò accanto a sé. «Dobbiamo proprio?» «Sì», rispose lei. «Dobbiamo proprio». aveva iniziato a scrivere la sua tesi. Fabio il venerdì sera aveva preso l'abitudine di aspettare Francesca all'uscita della biblioteca per portarla a mangiare il sushi in un ristorante giapponese a pochi passi da lì. Lui si era laureato appena qualche mese prima e a settembre aveva accettato una supplenza al liceo scientifico Castelnuovo. Gli piaceva insegnare più di quanto non avesse immaginato. E il venerdì era decisamente il suo giorno preferito. La sua ultima ora di lezione era quella delle 10:45, in quinta, la sua classe preferita. Finita l'ora, si fermava in aula professori a fare due chiacchiere con qualche collega e per le 12:30 al massimo era già in macchina. Arrivato a casa, scartava la focaccia alle olive che il giorno prima Francesca gli comprava in una rosticceria vicino alla biblioteca, la metteva in forno a scaldare e intanto accendeva il televisore. A volte faceva in tempo a vedere il telegiornale dell'una, ma di solito era quello dell'una e mezza. Quel venerdì li aveva visti entrambi. Nel ristorante, dove ormai erano di casa, Fabio e Francesca avevano il loro tavolo personale. Lo aveva scelto lei la prima volta che ci erano andati, perché era situato a poco più di un metro da un acquario pieno di piccoli pesci tropicali. Il resto del locale non era un granché. Le pareti erano piene di quadri dai colori abbaglianti che ritraevano antichi guerrieri e donne che preparavano il tè. E le decorazioni che ciondolavano dal soffitto ricordavano vagamente le cianfrusaglie che davano in premio ai chioschi del Luna Park. Ma ad osservare quei pesciolini, Francesca rimaneva come ipnotizzata. Quella sera poi era particolarmente su di giri. Il suo professore aveva letto l'ennesima versione del terzo capitolo della sua tesi e finalmente ne era rimasto soddisfatto. Ora ne mancava solo il quarto. Se non me lo fa riscrivere 8 volte come i primi 3, potrei perfino farcela consegnare entro febbraio e vorrebbe dire laurearmi nella sessione di marzo, ti immagini? Parlava veloce e a voce alta, le guance rosse dall'euforia, e non solo, visto che aveva già finito il primo boccale di birra. Che poi, del quarto capitolo abbiamo già discusso varie volte e lo sa già cosa ho intenzione di scrivere, non mi romperà mica le palle per 6 mesi un'altra volta, no? Fabio sorrideva, era bello vederla così. E comunque, se ce la faccio per marzo, a Pasqua ce ne andiamo alle Maldive, senza discutere. Alle Maldive. Ma sei appena stata alle Canarie, tra l'altro con la scusa veramente penosa di studiare lo spagnolo. No, e se invece ti regalassi una cassa di birra cinese? Che tenero, il solito romanticone. A proposito, Francesca fece un cenno al cameriere più vicino. Me ne porta un'altra? Disse sollevando il bicchiere. Il cameriere annuì. Che poi mi dovresti spiegare perché in un ristorante giapponese ti danno la birra cinese. Cioè, che senso ha? Sei sfasato. È come se uno mangiasse il fegato alla veneziana a Cuneo o il cacciucco alla livornese a Sondrio o, che so, il risotto alla milanese a Marsala. Sì, ho capito. La interruppe lui ridendo. Te è meglio che aspetti un attimo con la birra, che ti vedo già bella carburata. Lei gli fece una linguaccia. L'umore giusto per domani. A Roma gli spacchiamo il culo. Abbassa la voce, sibilò Fabio guardandosi intorno. Lei lo trovò particolarmente divertente. Dio mio, sei rosso come un gambero, dovresti vederti. Aspetta che lo ridico. Domani pomeriggio a Roma spacchiamo il culo a quei bastardi. Fabio si mise una mano sulla fronte scuotendo la testa. Allora, mettiamo in chiaro una cosa. Tu domani non spacchi il culo a nessuno, se non altro perché poi il culo lo spaccano a me, chiaro? Inoltre, tu non ti allontani da me neanche per un secondo. E al primo accenno di casino ti prendo di peso e ti porto via. Francesca sorrise maliziosamente. Mi prendi di peso? Come sai fare tu in mezzo a tutta quella gente? Non vedo l'ora. Lui allargò le braccia in segno di resa, prese il suo bicchiere e beve un sorso di birra. Senti, Francesca, adesso seriamente. Io preferirei di no. Ma se domani ci vuoi proprio andare, va bene, ci andiamo, ma a una condizione. Nel corteo ci mettiamo dove dico io e al minimo tafferuglio ti allontani insieme a me, siamo d'accordo? Lei gli prese una mano e gliela strinse. Siamo d'accordo, faccio la brava. Adesso però ti rilassi, ok? Fabio annuì con una certa riluttanza. Poi prese la sua birra e la finì in un sorso. Il Frecciarossa viaggiava verso Roma con appena 7 minuti di ritardo. Fabio, che stava leggendo il Corriere e non aveva aperto bocca da quando erano saliti, alzò la testa e guardò fuori dal finestrino. «Sta uscendo il sole», disse. «Evviva!» rispose lei distrattamente. Fabio chiuse il giornale e glielo allungò. «Vuoi?» «No, dopo, tanto qui ho la diretta». «Cosa dice?» Francesca alzò le spalle e scorse il dito sul display del cellulare. «Ma tutto tranquillo, solo le solite dichiarazioni idiote. I moderati si ribellano, saremo in 100.000». «E chi lo dice?» «Ma quella deficiente della Di Mauro. Tanto è l'ultima uscita all'aria aperta. Da domani faranno i turni a San Vittore a portarle le arance». Lui non disse niente. Francesca, che sapeva benissimo a cosa stava pensando, cercò di farlo sorridere. «Qui dice anche che quelli dei pesci in serata farebbero bene a portare le fidanzate in Piazza Navona per l'aperitivo. Beh, con Venere nello Scorpione è praticamente obbligatorio». Lui in un primo momento non reagì, guardandola con la stessa espressione corrucciata con cui si era svegliato 3 ore prima. Poi, molto lentamente, il suo volto si rilassò. «Guarda che ti sbagli. Con Venere nello Scorpione, quelli dei pesci devono tenere le fidanzate in casa a fare il bucato e a cucinare. È proprio un fatto scientifico». «Ah, sì? Beh, saranno 2 scuole di pensiero astrologico diverse». «Probabile. Potevi scriverci la tesi invece di perdere tempo con i colonnelli». «Assolutamente, con un intero capitolo sui pesci imbronciati». Lui non replicò e le sorrise. A meno di mezz'ora dall'arrivo a Roma, Fabio sorrideva. Grazie Maria Pia. Una domanda ancora per Gianluca. Come ti diverti di più a scrivere racconti, romanzi, poesie, saggi? Dipende. Direi che di solito vado a fasi. Ho scritto poesie per vari anni, nel momento in cui poi sono stato in grado di passare alla prosa ho scritto quasi solo racconti, poesie molto meno, se non momenti molto particolari, e ti dirò che adesso che ho fatto il passo verso il romanzo, che ho visto che in qualche modo sono in grado di farlo, penso che continuerò così. In realtà la notizia della pubblicazione è stata una motivazione fortissima. Io avevo già cominciato a buttare giù qualcosa per il secondo con poca convinzione, con poca motivazione, lo prendevo, lo mollavo. E dal giorno esatto in cui ho avuto la conferma, la notizia che mi avrebbero pubblicato, quando posso scrivo, e quindi penso che per un bel po' andrò avanti su questo filone. Aggiungo forse qualcos'altro rispetto a quanto detto prima, perché potrebbe anche sorgere spontanea la domanda rispetto a quello che ho definito risentimento politico, senso di rivalsa, livore, perché io conosco varie persone che hanno dato giudizi molto simili ai miei rispetto a quanto è accaduto, però molti sono stati anche in grado di farsi scorrere addosso certe cose con un minimo di leggerezza in più. E leggerezza io invece su questo un po' pochina, in effetti. E al di là dei fatti, come dire, di cronaca giudiziaria, su cui non entro perché finisco per annoiarvi, e ripeto, sono fatti su cui è stato detto tutto ripetutamente, quindi non è il caso di fare la sintesi. Ci sono altre due considerazioni, se vogliamo, che hanno in qualche modo contribuito a suscitare questo stato d'animo, che non è permanente, ma che però mi ha accompagnato per molto tempo. E la prima circostanza che mi ha sempre pesato molto e che ho sempre fatto molta fatica a elaborare, a gestire con un minimo di distacco, è il fatto di essere preso in giro praticamente tutte le volte che andavo all'estero. E posso assicurarvi che, soprattutto nei paesi europei, non era una circostanza, un fatto che io subissi da parte di, diciamo così, persone di sinistra, assolutamente. Anzi, se possibile, erano proprio i conservatori, i liberali a esprimere ironia, per usare una parola prudente. E del resto mi ricordo ancora editoriali di fuoco e veramente sprezzanti, uno dell'Economist, mi sembra un altro del Financial Times, che è vero, poi in Italia qualcuno ha anche definito giornale di sinistra, ma su questo preferirei non infierire. E questo è stato un fatto con cui ho sempre fatto molta fatica a pensare, sì, vabbè, chi se ne importa. E il secondo elemento che ha a che fare con una mia forse predisposizione, o forse con una mia ipersensibilità, perché immagino che probabilmente anche qui in sala ci saranno opinioni diverse su questo, è quello che io definisco come una sorta di corruzione del linguaggio. So che è un'espressione forte, però posso provare a spiegarlo con un esempio concreto. Se noi prendiamo il binomio riformista-conservatore, nelle dottrine politiche queste sono due parole che hanno un significato molto preciso. Ma dal 94 in poi è passato il messaggio per cui chiunque presentasse una riforma, a prescindere dal merito, a prescindere dal contenuto, a prescindere dalle finalità, dagli obiettivi, dai contenuti, passava per riformista, perché era comunque una riforma. Mentre chi si batteva per mantenere e quindi per conservare delle norme, magari anche semplicemente delle norme che garantivano dei diritti, perché proponeva di conservare quelle norme, passava automaticamente per conservatore. Ora, è del tutto evidente che se si utilizzano le parole in questo modo, quelle parole lì non hanno più nessunissimo significato. Eppure, negli anni, questo utilizzo del linguaggio è diventato assolutamente senso comune e politicamente trasversale. Non riguarda solo una parte politica. E potrei fare lo stesso identico esempio con il binomio moderato-estremista. Per cui è passato per moderato, è stato riconosciuto come moderato chi ha sistematicamente aggredito tutti i poteri dello Stato non allineati. Quindi ovviamente la magistratura, il capo dello Stato quando poche volte magari non firmava proprio tutto quello che il Parlamento gli passava, la Corte Costituzionale, i partiti d'opposizione, le testate giornalistiche non allineate, singoli giornalisti, ce li ricordiamo tutti, non allineati. Mentre sono stati definiti estremisti, ma insomma, a me dispiace anche dire nomi, ma ve lo ricordate Indro Montanelli? No? Cioè, uno più anticomunista di lui non credo, in realtà i personaggi più noti, sarebbe cattolico comunista anche lui, quando appunto si è permesso di esprimere delle critiche, delle perplessità. Enzo Biagi, no? E La mia personale, posso anche ammettere di essere forse ipersensibile su questo, ma io ritengo che questa sia un'autentica forma di corruzione del linguaggio, e io personalmente, ripeto, è la mia personalissima opinione, per me quell'utilizzo del linguaggio è in qualche modo la continuazione, l'estensione della corruzione vera e propria, della corruzione giuridica. E a me dà infinitamente più fastidio, che non trovo molto più osceno questo utilizzo del linguaggio, che non il ricorso al turpiloquio, che a me personalmente non dà nessun fastidio, anzi nel libro di parolacce ne trovate diverse. E tutto questo ovviamente aggiunto alle note, notissime vicende giudiziarie, tutto questo grumo di fatti, di circostanze, di tendenze, ha fatto sì che in effetti quello che io, ripeto, non considero una categoria della politica, in realtà lo è diventato, ed è una cosa, come dire, credo non risolta, anche se il personaggio è in declino, un capitolo si sta chiudendo, ma ho la sensazione che io non abbia per me risolto questa questione. E quindi in questo romanzo questo aspetto, questo elemento è diventato, io credo, l'elemento principale. Ce ne sono altri, temi, ma se dovessi identificare il nucleo centrale del romanzo, penso proprio che sia questo. Ecco, quindi tu denunci questa confusione attraverso la corruzione del linguaggio, no? Questa confusione che viene creata artatamente forse a livello sociale, perché non si hanno magari delle idee, ma si cerca attraverso la confusione poi di ristabilire degli ordini, che è un meccanismo insomma pericoloso. Lo denunci anche, traspare anche attraverso queste righe, attraverso quello che tu hai appena così esposto. Secondo me la parte politica, il tuo impegno, il tuo pensiero esce da questo racconto, ma c'è anche molta amicizia, c'è amore, ci sono viaggi, ci sono spostamenti, e soprattutto insisto su questa fine molto così inaspettata, inattesa. Ecco, io insisto molto su questo aspetto quasi di una costruzione da romanzo giallo. Non è un romanzo giallo perché non è che ci sono non c'è un delitto, non c'è qualcuno che investiga, è un meccanismo della scoperta del finale, però la suspense che hai saputo creare è veramente paragonabile a quella di un racconto, di un romanzo giallo, che secondo me potresti anche sperimentare in futuro. Ci penserò, grazie. Eccomi. E aggiungo forse un'ultima cosa, siamo già quasi alla fine. Ho dovuto risolvere una questione diciamo di ordine pubblico, perché nel momento in cui ho deciso di descrivere due manifestazioni di segno contrapposto, fortemente ostili l'una verso l'altra, lo stesso giorno a Roma, e dovendo inevitabilmente sviluppare la trama verso un contatto, verso uno scontro cruento, io chiaramente non potevo mettere i due cortei, le due manifestazioni nella stessa piazza, perché era del tutto evidente che due manifestazioni così ostili l'una verso l'altra nella stessa piazza mai sarebbero state autorizzate. E quindi mi sono trovato col problema di rendere plausibile il fatto che due manifestazioni abbiano luogo in due parti diverse di Roma, ma che per ragioni plausibili di ordine pubblico vengono fatte entrambe confluire verso più o meno la stessa zona, che è la zona di Via Nazionale, una strada molto lunga, più o meno metà strada tra Piazza Venezia e Piazza della Repubblica, e fare in modo che però fosse plausibile anche il fatto che poi la situazione sfuga di mano. E nello scrivere questi passaggi mi sono reso conto, ho dovuto prendere atto che semplicemente mi mancavano le competenze. Ho cominciato a improvvisare, a inventarmi delle cose, ma era evidente che quello che stavo scrivendo non era credibile. E quindi mi sono fatto aiutare da un amico che è Leonardo Albanesi, che dopo oggi non ha potuto venire perché per motivi di lavoro, tenente colonnello dei carabinieri, e ci siamo messi con la cartina di Roma sotto il naso a studiare i possibili tracciati, e devo dire che per me è stata un'esperienza fenomenale, perché ho semplicemente conosciuto delle cose, ho conosciuto un mondo che mi era quasi totalmente strano. Non sentivo parlare di ordine pubblico sui giornali quando capitano, ci sono degli scontri, ma io non avevo la più pallida idea di come si organizzasse una manifestazione, di quali fossero i criteri per decidere un percorso piuttosto che l'altro. E con il suo aiuto io credo di essere riuscito a fare in modo che tutta la vicenda avesse una sua plausibilità, per cui ci sono due percorsi diversi, ci sono due punti d'approdo dei due cortei nella stessa strada ma più o meno 400 metri l'uno dall'altro, e con ovviamente un ampio schieramento di forze tra i due cortei, e ciò nonostante la situazione poi sfugge di mano. E tra l'altro, un'altra piccola cosa, io poi nel momento in cui avevo deciso dove far svolgere gli eventi, avevo deciso di andare a Roma a fare un sopralluogo, perché andavo a descrivere strade trasversali, parallele, piazze, incroci, e quindi avevo deciso di passare un fine settimana a Roma, di aggiungerci anche un giorno, di fare un fine settimana lungo, il venerdì o lunedì, e con questa intenzione mi sono presentato dalla mia capa dicendole appunto che volevo andare a Roma per fare un sopralluogo di questo tipo, perché stavo scrivendo una cosa che si stava svolgendo lì, e lei mi ha guardato con un misto di perplessità, stupore, scetticismo, e mi ha detto: ma tu vai a Roma per fare un sopralluogo, per vedere le strade, ma tu hai mai provato a guardare Google Maps? Perché io sono tornato a casa, mi sono fatto il mio sopralluogo seduto sul divano di casa mia. Naturalmente la versione ufficiale rimane che io sono andato a Roma a fare un minuzioso, dettagliato, non lo diremo a nessuno, per studiare percorsi, per assaporare un po' anche l'atmosfera di Roma, perché questo fa molto personaggio, fa molto scrittore. Rimanga fra noi che in realtà io non sono luogo a Roma, non sono mai stato, ma insomma ho risolto la questione facendo ricorso ai mezzi delle nuove tecnologie, di cui sono evidentemente un grande esperto. Bene Gianluca, questo segreto ce lo terremo per noi, non lo mettiamo neanche nel podcasting. Vuoi che lasciamo un po' di spazio per qualche domanda al nostro pubblico? Se qualcuno vuole intervenire. Se c'è qualche senza curiosità. Fare del male. Possiamo anche parlare davanti a una birra, non siete obbligati. Ecco, comunque noi abbiamo portato alcuni libri, ce ne sono anche davanti all'entrata, e poi ci sono alcuni libri che la biblioteca aveva catalogato precedenti, ecco, quelli che ha scritto, quindi chi fosse curioso di leggere anche altre cose di Gianluca può venire in biblioteca da noi, che siamo in via Mendola 5. Ne approfitto di questo breve spazio, visto che siete tanti, e mi fa piacere che tu sia riuscito a catalizzare l'attenzione, ecco, di un pubblico così giovane ed eterogeneo. E la biblioteca chiude la sua attività di presentazioni, di conferenze, con la prossima settimana. E la presentazione del libro di Frangipane, anziché lunedì 27, la faremo martedì 28, sempre alle 18, e sempre qui al Centro Trevi, e poi concluderemo la nostra stagione primaverile estiva il 30 di giugno, sempre qui al Centro Trevi, in questa sala, con una conferenza accompagnata da presentazioni di libri, dalla relatività generale di Einstein alle onde gravitazionali. Ecco, noi ci buttiamo sempre su temi molto diversi, ci piace fare un po', ecco, i difficili, però abbiamo visto che in fin dei conti anche la fisica ci dà a volte delle spiegazioni, non tutto, ecco, ma dove siamo e chi siamo, le domande fondamentali a volte possono anche arrivare non solo dalla religione, non solo dalla politica e dalla filosofia, ma anche dalla fisica, e quindi cerchiamo di toccare tutti i tasti Ciò non toglie che la fantasia, il racconto, la narrazione, la poesia, come dicevamo prima, sono degli straordinari veicoli di idee, di messaggi e soprattutto di elementi che possono farci sentire tutti appartenenti ad un unico grande strepitoso universo, perché mi riallaccio poi a quello che sarà il nostro momento conclusivo. E stupisce, no? Che ci mettiamo a litigare, che riusciamo ad arrivare a degli scontri, anche se in realtà forse di scontri non ce ne sono neanche tanti. Non so, questa energia che hai tirato fuori, devo dire che è un po' languita, non langue in questo periodo, non c'è un grande dibattito, non so se sono io che sono diventata insensibile o effettivamente siamo in un momento di calma apparente. Non saprei, ma ecco. Temo di aprire un capitolone che poi allora ci daremo un appuntamento al prossimo romanzo di Gianluca. Prego. Concludo con un'ultima cosa. Ho notato, ci sono vari amici presenti oggi che non vedevo da un bel po' di tempo. Se mi permettete un commento, mi fa ovviamente molto piacere, però non è che posso pubblicare un romanzo tutte le volte che ho voglia di vedervi, quindi sì, no, va bene anche una pizza, insomma, ve la metto lì così, poi fate voi. Ah, certo. E un'altra piccola cosa, è stata una settimana molto particolare, io penso che in questa forma irripetibile, perché c'è stata la presentazione del primo romanzo oggi e due giorni fa mi sono presentato per l'esame è per il terzo dan di Taekwondo, esame che l'anno scorso non avevo superato, giustamente, perché evidentemente non ero pronto, e non ho ancora il risultato ufficiale, ma sono abbastanza contento di quello che sono riuscito a fare. Vedo Marcus giù in fondo, per chi non lo conoscesse, è Marcus Zada, parliamo di un 7 volte campione del mondo e che ho anche l'onore di poter considerare come mio maestro di arti marziali. Quindi questa settimana, devo dire, queste ultime 48 ore sono state molto molto dense di eventi. E per concludere, non so se ti ricordi come ci eravamo lasciati quando avevamo presentato i racconti, avevo detto una cosa tipo: ho la sensazione che non sia l'ultima pubblicazione, quindi magari per quella dopo ci ritroviamo di nuovo qui. Allora, ho la sensazione anche adesso che non sia l'ultimo romanzo, e quindi se siete d'accordo, tu e Maria Pia, ci ritroviamo qui per la prossima. Benissimo. Complimenti allora. Dai, grazie mille per essere venuti.